Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi è venerdì 17, quindi già è un giorno che è tutto un programma, però anche se in molti non ci credano, c'è la sensazione che la tendenza alla ripresa delle borse cominciata ad inizio marzo possa a questo punto davvero consolidarsi. Dai minimi raggiunti il 9 marzo scorso, le piazze finanziarie internazionali hanno ripreso a salire in maniera molto decisa. Vi do qualche percentuale di crescita per darvi un po' la misura di quello che è accaduto nell'ultimo mese abbondante. Piazza Affari ha recuperato il 40%, oltre il 20% i listini americani, fra il 15 e il 20% le altre piazze europee. E quella che si chiude oggi è una settimana particolarmente importante per la borsa, per i conti delle aziende, per i conti delle banche americane, per le numerose trimestrali che sono apparse prudentemente incoraggianti. Allora, a che punto siamo, dati i numeri di questa settimana della crisi finanziaria? Che segnali arrivano anche dagli Stati Uniti? Lo avete sentito poco fa anche nel promo. Questo è il tema di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore ed è il tema che oggi affronta anche Salva Danaio con Simone Filippetti, collega delle Sole 24 Ore. Simone, bentornato. Grazie, un saluto ai radioascoltatori. Bentornato. Per la verità, Salva Danaio lo pratica molto poco, un po' più frequentemente ospite invece il pomeriggio di Focus Economia. Buongiorno a Nicola Foscari, responsabile del team equity di Credit Suisse Asset Management Italy. Foscari, bentornato. Sì. A lei buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie, benvenuto anche a Gianmarco Bonaccina, responsabile della ricerca estera di Equitas IM. Buongiorno. Buongiorno. Ovviamente microfoni aperti ai nostri ascoltatori per le domande sul tema di oggi e le considerazioni sul tema di oggi. 800240024 è il vostro numero verde. Il vostro numero invece per scriverci dei messaggi è il 349 238 6666. Visto che parliamo di borse, di, come dire, prospettive per le prossime settimane, per i prossimi mesi, per il tempo in cui è ragionevole viaggiare, ovviamente abbiamo imparato negli ultimi mesi analizzando più volte la crisi in corso che in questo momento è molto difficile sbilanciarsi in previsioni di lungo periodo. Diciamo che così l'occhio temporale è molto più ridotto rispetto a quanto si faceva qualche tempo fa, quando gli analisti, gli economisti riuscivano quantomeno a fare delle previsioni un po' più ampie, di ampio respiro. E allora cercheremo di analizzare quello che è possibile prevedere da qui all'estate magari, ma andiamo a vedere anche quello che succede questa mattina. Gli indici sono tutti positivi in Europa, abbiamo Parigi che registra un più 0,97%, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,58% e Milano che ancora una volta si distacca nettamente dal resto d'Europa e sta guadagnando l'1,74%. Stanno andando molto bene i titoli del settore assicurativo da un paio di giorni. Ieri c'è stato questo maxi convegno a Milano in cui i vertici dei grandi gruppi italiani hanno espresso delle così indicazioni positive su quello che potrebbe essere stato il primo trimestre di quest'anno, ma anche sui conti dei prossimi mesi, per cui un grande recupero per i titoli di questo comparto. Unipol più 7, ieri è andato molto bene anche Fondiaria che però oggi scende, Fiat più 5,93%, per il lingotto ormai sarebbe addirittura d'arrivo, almeno lo scrivono in molti, l'accordo per l'ingresso nel gruppo Chrysler negli Stati Uniti, ovviamente un ingresso che vedrebbe Fiat detenere una quota dell'azionariato del 20%, c'è anche questa possibilità di un'acquisizione del 20%, chiamiamola così, poi in realtà è una dinamica piuttosto complicata, del 20% da parte del sindacato dei lavoratori appunto del settore auto in Chrysler. Però in ogni caso questo accordo, che era apparso in bilico nelle ultime settimane, sarebbe invece ormai in procinto di essere firmato. Fiat adesso più 6%, Alleanza più 4,84%, il Banco Popolare più 4,49%, Geox più 3,90%, insomma giornata piuttosto buona per Milano. Titoli col segno meno: Fondiaria meno 0,8%, Snam, Rete Gas meno 0,13%. Lascerei la borsa, ma per quello che riguarda la seduta odierna, poi magari oggi gli diamo un'occhiata di tanto in tanto, visto che di borsa e di mercati parliamo per tutta Salva Danaio, sentiamo un po' che cosa è successo nelle ultime settimane e su quali temi stanno guardando adesso, a quali temi stanno guardando adesso investitori ed operatori. Borse mondiali alla prova bilanci. Questa settimana è stata la volta di Wall Street, che ha visto le principali società quotate scoprire le proprie carte svelando i conti trimestrali. Gli occhi del mercato naturalmente sono puntati su quelli delle banche, epicentro della crisi finanziaria, utili per comprendere il vero stato di salute del sistema. A scoprire per prima i propri numeri è stata Goldman Sachs, che ha sorpreso il mercato annunciando utili in crescita nel primo trimestre del 2009, seguita ieri da JP Morgan, che nonostante un calo dei profitti del 10% rispetto al primo trimestre 2008, ha battuto le stime degli analisti. Oggi sarà la volta di Citigroup, la più grande banca commerciale al mondo, per la quale sono attesi conti in perdita ma comunque in miglioramento. Nei prossimi giorni, infine, toccherà anche a Bank of America, poi lo scenario sarà più completo. Nessuno comunque tra gli analisti ed esperti si aspetta miracoli dai numeri in arrivo, ma saranno tuttavia utili per capire chi tra i gruppi finanziari sta meglio o peggio e chi di conseguenza avrà più o meno possibilità di uscire dalla crisi, perché lo spettro di altri fallimenti continua comunque ad aleggiare sul mercato. L'ondata di trimestrali in corso è dunque una sorta di test. Se la borsa continuerà a reggere al verdetto dei bilanci, allora il rimbalzo che dura ormai da 5 settimane e che ha portato Milano a guadagnare oltre il 40%, New York e Tokyo intorno al 25%, potrebbe consolidarsi. Non sono mancate tuttavia notizie negative che hanno confermato l'ancora difficile momento per altri settori, come quello dell'auto, quello aereo con il profit warning lanciato da Boeing, delle telecomunicazioni o del settore energetico con Chevron, che ha annunciato che nell'anno in corso i risultati si attesteranno a livelli significativamente inferiori al 2008. Senza considerare che proprio ieri è nuovamente sceso in campo il Fondo Monetario Internazionale, che ha espresso ulteriori preoccupazioni su portata e durata della recessione in atto. Noto già che molti ascoltatori insomma non vedevano l'ora che tornassimo su questo argomento, a giudicare da quante chiamate stanno arrivando all'800240024. Ci sono già alcuni ascoltatori in attesa, li sento tra pochissimo. Prima però vorrei fare un rapido giro di commenti con i nostri ospiti di questa mattina. Allora, Simone Filippetti, collega del Sole 24 Ore, da qualche giorno sta seguendo e monitorando attentamente i conti delle banche americane che sono in corso di divulgazione, però i pesi massimi, forse i più attesi, arrivano proprio da oggi e lunedì. Citigroup oggi è la grande attesa di questa, sì, esatto, di questa giornata, Simone. Sì, tutti gli occhi del mercato sono puntati sulla più grande banca commerciale al mondo, che chiaramente farà un po' da barometro, come lo ha fatto, hanno fatto i conti di Goldman a inizio settimana. Io in un articolo scritto alcuni giorni fa, insomma, facevo questa specie di battuta dicendo se una rondine non fa primavera, quindi che gli utili di Goldman probabilmente non facevano primavera. Ora, volendo continuare con questo insomma, siamo un po' tutti scaramantici, continuiamo ad essere, esatto, un po' così. No, probabilmente queste rondini faranno primavera. Il problema è che forse questa primavera potrà non essere, come dire, significativa, perché probabilmente oggi Citigroup uscirà con una perdita, però sarà migliore, come dire, migliore di quello che si aspettava, e quindi potrebbe essere il segnale che siamo arrivati a un punto di svolta. La mia personale opinione è che questi conti che noi vediamo sono buoni, ma rischiano di essere dei conti fuorvianti, perché gli utili o le minori perdite in arrivo derivano da fattori sostanzialmente che non indicano che abbiamo risolto i nodi fondamentali che hanno portato a questa crisi. Le banche sono state il bubbone da cui è partito il virus che ha portato, come dire, come ammoniare, in recessione alla situazione che stiamo vivendo, che tutti sappiamo, che non dobbiamo qui riassumere, e quindi è chiaro che prima le banche ripartiranno, prima l'economia ripartirà. Per questo tutti stanno guardando i conti delle banche, perché sono stati l'untore primo. Una volta che da loro arriverà un segnale di svolta, vorrà dire che poi a catena tutto il sistema ne beneficerà. Ora, sarà questo il trimestre della svolta? Io credo di no, nonostante i dati positivi che potranno arrivare. Poi magari spiegherò magari meglio anche perché, sì, infatti, credo che non sia, no, così. Tra l'altro ti volevo anche chiedere un altro giudizio a proposito di un altro aspetto relativamente alla pubblicazione dei dati in corso in questi giorni, perché mi ha detto anche qualcuno, così sentendo un po' di opinioni in questi giorni, che forse si tende anche un pochino a giocare a ribasso per quello che riguarda le previsioni, in modo tale che poi quando la banca o comunque un'altra azienda, operante anche in un altro comparto, rassegna una trimestrale che batte leggermente le attese, allora il mercato è tutto felice, adesso, certo, corre con un po' più di decisione. Diciamo, tra virgolette, è un giochino che si è sempre fatto, nel senso che le grandi, non solo le grandi banche, ma anche le grandi corporation, che hanno dei investor relator chiaramente preparati e anche abili, normalmente guidano gli analisti sulle stime. Generalmente molte società, specialmente in America, tendono, come dire, a guidare gli analisti nella parte bassa del consensus, come si dice, delle stime che fanno. Questo permette a loro di avere questo effetto ottico, per cui se io mi aspetto un utile, diciamo, 10 centesimi, e poi esco un utile di 11, io di fatto ho un impatto di, psicologicamente di percezione molto positiva sul mercato e quindi posso avere degli effetti benefici, per cui questo è un elemento sensato da tenere in considerazione, ma come dire che è una costante dei mercati finanziari sul quale tra l'altro guarda interpello subito gli altri ospiti di questa mattina, facendo però intervenire anche Mirko da Vercelli, il nostro primo ascoltatore. Lo faccio intervenire subito perché credo che si sia sentito subito stimolato da questo aspetto. Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sbaglio? Ho deciso di intervenire quando posso parlare? Certamente. Sì, ho deciso di intervenire perché quando ho sentito che giustamente i valori di borsa erano più positivi in quest'ultimo mese grazie ai bilanci delle banche, mi sono sentito subito in causa, nel senso di dire, ma mi scusi, cioè i bilanci, a parte che sono rimasti positivi grazie anche all'intervento del tesoro americano che ha permesso di valorizzare degli asset che il giorno prima non erano valorizzabili, e di conseguenza i bilanci sono fatti di numeri, però la realtà è tutta un'altra cosa. E poi grazie anche al buyback aumentato, sì, il riacquisto di azioni proprie operato dalle società, insomma, per sostenere anche le quotazioni. Sì. Quindi io aspetterei a fine aprile, i primi di maggio, quando ci sono i stress test del governo americano, che non riesco a capire le banche che vanno bene quando poi hanno bisogno degli aumenti di capitale, insomma. No, tra l'altro, a proposito degli aumenti di capitale, questo di Citigroup mi pare che sia congelato, quello di Goldman Sachs è stato annunciato, ci sono tante condizioni, insomma, che riguardano anche questi aspetti. Però Mirko, perplessità del tutto legittima, allora faccio un giro tra Nicolò Foscari e Gianmarco Bonacina, i nostri osservatori di mercato più diretti di questa mattina. Nicolò Foscari, cosa pensa del giudizio del nostro ascoltatore? E poi magari spieghiamo anche, se avete tempo, uno di voi poi decidete, insomma, magari vediamo che cos'è lo stress test di cui parlava il nostro ascoltatore. Allora, sono bilanci, come dire, non propriamente, non dico limpidi in termini negativi, però sicuramente le ultime vicende hanno condizionato molto il bilancio che le banche presentano in questo momento. Sì, allora io condivido la maggior parte di quanto è stato detto prima. E in questi casi si dice che i risultati sono buoni, ma che la qualità dei risultati non è particolarmente buona, nel senso che per esempio se guardiamo a Goldman Sachs e JP Morgan vediamo che i risultati sopra le attese sono stati ottenuti attraverso il trading sul fixed income, quindi diciamo che non abbiamo avuto... Ci può tradurre per i nostri ascoltatori, dottor Foscari, gentilmente? Sull'attività di trading sul mondo obbligazionario, diciamo così. E cambi, quindi sì. Non abbiamo avuto nessuna in realtà informazione o visibilità ulteriore su quanto riguarda le svalutazioni nei bilanci o comunque sul deterioramento degli asset in pancia alle banche. Anzi, se guardiamo poi all'Europa, a UBS, quanto è stato detto mi sembra ieri, in realtà di notizie particolarmente positive ancora non l'abbiamo. Io però volevo spostare un pochino il problema, perché si è detto prima che questo rimbalzo di mercato è stato basato sul miglioramento degli utili delle banche. Secondo me questo non è vero, nel senso abbiamo avuto un rimbalzo che è iniziato all'inizio di marzo e ha trovato ragione sulla forte liquidità che c'è in questo momento, che poggia su molti fondi monetari che si sono spostati come flussi sul mercato azionario. Abbiamo avuto stabilizzazione di alcuni indicatori macroeconomici, fra cui la fiducia delle imprese sia in Europa che negli Stati Uniti, e soprattutto dei buoni dati provenienti dalla Cina, a parte gli ultimi due giorni sul GDP, però abbiamo avuto un'attività di prestiti in Cina ancora molto forte, i consumi che rimangono molto forti, e soprattutto, per tornare negli Stati Uniti, abbiamo alcuni segnali di stabilizzazione del mercato immobiliare. E poi abbiamo anche una certa... E avevamo anche un mercato che aveva comunque ben raschiato per un po' il fondo, adesso certo, magari, diciamo, magari lo recupera di nuovo, però... Diciamo, forse un rimbalzo tecnico per qualche settore che aveva sofferto ingiustificatamente più di altri... Certo. Certo, però non è tutto indirizzabile a quello che sono gli utili delle banche. Diciamo che c'è probabilmente uno scenario che viene dato dagli ultimi dati che sono usciti nel corso dell'ultimo mese e mezzo di una certa stabilizzazione, quindi ancora le economie che sono in contrazione, perché infatti quello che prevediamo noi è che la contrazione economica possa continuare fino alla fine di quest'anno, però una contrazione meno marcata rispetto a quella che abbiamo avuto al fine dell'anno 2008 e nei primi due mesi del 2009. Oltretutto non dimentichiamo che il G20 ha portato alcune notizie positive, 1.1 di $1 trillion ancora sul mercato, di cui molti sul Fondo Monetario Internazionale. Questo può essere di aiuto soprattutto per i mercati emergenti. Poi volevo aggiungere un'altra cosa, guardando un pochino i dati su quelli che sono i rimbalzi tecnici delle ultime fasi molto deboli di mercato. Per esempio, se io guardo al Giappone, che ha avuto una fase di mercato debole per dei 10 o 15 anni, ci sono stati fasi di rimbalzi anche intorno al 40%, durati anche 5 mesi. Mm-hmm. Quindi questo vuol dire, uno, che non è nulla di sorprendente il mercato, questo rimbalzo del mercato che stiamo vedendo. Due, che non sta dando nessun segnale di inversione di tendenza. Quindi, quindi attenzione. È una cosa che ci si poteva aspettare, probabilmente, che dopo aver visto. Insomma, lei lo giudica proprio quello che abbiamo scoperto essere un termine terribile che circola in questo momento sul mercato, ma insomma è anche capitato in passato che circolasse questo famoso rimbalzo del gatto morto. Esatto, ecco. Esatto. Ma penso che sia anche opinione comune che questo sia un pochino un tipico rimbalzo che vediamo, l'abbiamo visto anche, guardi, nella grande depressione degli anni 30, dei rimbalzi simili, arrivati fino al 50%. Quindi... Questo però, insomma, rimbalzo di questo tipo, lei dice sì, pur interessante, però non nasconde niente di concreto e comunque di consolidato dietro, almeno al momento. Gianmarco Bonacina, Equita SIM, le giro subito quest'ultima considerazione, le chiedo se è d'accordo, cosa vede lei dietro a questa tendenza che sì. Si è manifestata dal 9 marzo a questa parte, soprattutto un commento anche sulla considerazione che facevamo prima relativamente ai conti delle banche americane, ma soprattutto la qualità dei bilanci che non appare affatto confortante ancora. Certo, io direi che sono d'accordo nel mantenere ora, dopo questo rimbalzo, una posizione di forte cautela, in quanto se guardiamo la performance dei settori sia in Europa che in America negli ultimi 12 mesi, sostanzialmente quello che è successo nell'ultimo mese è appunto esattamente l'inverso, quindi negli ultimi 12 mesi il settore farmaceutico, il settore food and beverage sono quelli che hanno sovraperformato, mentre al contrario il settore bancario, il settore auto sono quelli che hanno sofferto, quindi settori più esposte a questa crisi economica. Quindi sostanzialmente dopo una serie di dati economici che sono stati un pochino meno peggio delle aspettative e dei risultati che almeno le headline, quindi diciamo anche se poi la qualità non è stata buona, però dei risultati che sono stati leggermente meglio delle attese, hanno fatto sì che si sia usciti da questa fase appunto di minimo con un forte rimbalzo di quei settori, appunto tipicamente il bancario o il settore delle auto, che negli ultimi 12 mesi erano arrivati a perdere fino al 70-80% del proprio valore, quindi sono rimbalzati. Quindi fa impressione vedere magari un più 40, ma dobbiamo considerare anche il livello di partenza. No, infatti, e dobbiamo anche considerare che poi, visto che questo più 40 che abbiamo citato all'inizio si riferisce proprio alla nostra piazza, alla borsa italiana, certo, ricordiamo anche banche. Che composizione bancaria ha questo listino, per cui era inevitabile che condizionasse anche la performance, certo, in questa maniera. Quindi io sono assolutamente d'accordo nel privilegiare ora i settori che in realtà hanno sottoperformato a un mese, anche se a 12 mesi mantengono delle buone outperformance, come il settore farmaceutico, il settore food and beverage, che dovrebbero continuare a avere un andamento degli utili diciamo piuttosto buono, anche appunto assumendo un 2009 un 2010 non con una forte ripresa. Bonacina, non ci dia altre indicazioni sui settori, perché magari li esploriamo nella seconda parte di Salvadanaio, perché vedo anche molti ascoltatori che vorrebbero entrare proprio nel merito anche di questi aspetti. Mi rimane un minuto di tempo prima della prima pausa, volevo chiedere allora a Simone Filippetti se mi aiuta a capire che cos'è questo stress test a cui le banche saranno sottoposte, quelle americane, prossimamente. Beh sì, l'enorme pacchetto di aiuti che è arrivato dallo scorso autunno sul, diciamo, il cosiddetto TARP, il programma di aiuto per le istituzioni finanziarie in difficoltà, è stato per l'America essenzialmente uno shock culturale, perché l'America non è un paese abituato a elargire aiuti pubblici. Tant'è vero che mi sembra che JP Morgan voglia subito restituire questi soldi avuti. Perché viene considerata una cosa, come dire, socialista, che in America equivale a dire comunista o sovietico, nella vecchia accezione del termine. Per cui lo Stato dice: ok, io ti presto i soldi perché sei in difficoltà e non possono farlo, altrimenti non posso permettermi un altro caso Lehman, perché chiaramente avremo il collasso definitivo dei mercati finanziari globali, dell'economia probabilmente. Però io ti aiuto, però tu a ogni tappa, ogni tot, io voglio assicurarmi che tu questi soldi li stia usando bene e che tu sia in condizione di restituirmeli in un piano programmato, perché io non sono l'IRI, insomma. Ecco, questo è il segnale che l'amministrazione americana vuole dare. Noi non facciamo economia di Stato, facciamo economia di mercato. Quindi io ti aiuto perché la situazione è eccezionale, è gravemente eccezionale, però devi dimostrare che i soldi li stai usando bene e che me li restituisci in tempi brevi. Perfetto, quindi questo è il prossimo appuntamento a cui le banche americane sono chiamate. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, 800 24 00 24, il numero verde per commentare insieme a noi, se volete, il tema di questa mattina, un tema che a Salvadanaio capita spesso. Parliamo un po' di scenari di mercato in base anche a quanto è ragionevole prevedere da qui ai prossimi mesi. Ormai non ci si sbilancia quasi più in previsioni di lunghissima agitata temporale, insomma l'ottica è quella del breve e medio periodo, ma comunque analisti ed economisti continuano a fare il loro lavoro per cercare di interpretare anche i segnali attuali che sul mercato si stanno vedendo. Abbiamo notato quello che è successo nei bilanci di alcune aziende, le banche in particolar modo sotto più che mai i riflettori negli Stati Uniti in questo momento. Oggi abbiamo i conti della più grande malata bancaria americana, che è Citigroup. Lunedì avremo Bank of America, abbiamo avuto negli ultimi giorni Goldman Sachs e JP Morgan, per qualcuna di queste insomma anche un cambio di status da grande investment bank siamo passati alla tradizionale banca commerciale, per cui è cambiato profondamente lo scenario di riferimento, e da quello adesso si tenta di ripartire, di ragionare per cercare di capire se questa borsa, anche alla luce di quello che è successo dai minimi dal 9 marzo ad oggi, ha intenzione di ripartire in maniera più solida o meno. E non c'è una grande convinzione intorno a questa prospettiva, almeno a giudicare dagli ospiti che abbiamo sentito e che stiamo ascoltando questa mattina: Nicolò Foscari di Credit Suisse Asset Management e Gianmarco Bonacina di Equitas SIM, ma è con noi anche Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Allora, ancora la parola ai nostri ascoltatori. Nicola da Roma, benvenuto. Nicola? Posso intervenire? Certamente, in diretta. Nicola, benvenuto. Buongiorno, io mi allarmo molto quando vedo che i mercati per assurdo vanno così bene, specialmente in queste circostanze, perché comunque non è... Sì, è vero che avevamo toccato comunque un fondo talmente, perdite del 70-80%, un rimbalzo ci doveva essere, però ci sono dei segnali comunque abbastanza allarmanti. Quello che mi fa paura, per esempio, è il Fair Value che hanno modificato in America e che comunque dipinge i bilanci in una maniera che non è reale. E Obama, che a me piace molto, mi sembra un po' un'anatra zoppa, nel senso cerca di fare delle cose, delle migliorie sicuramente valide, ma viene poi fermato a un certo punto, perché al momento in cui gli utili sono figurativi, perché di quello si tratta, non vedo perché poi la borsa debba continuare per 5 settimane a salire e non avere uno stop salutare ed essere più adeguata alla realtà dei fatti. Quindi insomma, da quello che capisco, Nicola, lei teme che questo stop sia a questo punto dietro l'angolo? Ma io non vorrei che magari adesso continuiamo, che ci sia una componente sicuramente speculativa, anche perché sui derivati si continua a operare, se non vado errato. E magari, che le posso dire, va bene per un po' e poi a maggio ci abbiamo un'altra volta il solito tonfo che ci riporta con i piedi per terra, e quindi sarebbe più salutare, secondo me, una realtà che si rispecchia nella borsa e non degli utili presunti oppure delle perdite meno gravi del previsto che poi portano sui mercati in maniera non adeguata e poi con grosso dolore per tutti noi investitori. Anche perché poi alla fine il conto dovrà essere presentato, chi lo paga questo conto? Poi avremo una maggiore inflazione o più tasse, o comunque l'investitore stesso che dovrà pagare questi maggiori costi. Infatti, Nicola, sì, sulle possibili conseguenze di questa crisi, che adesso in qualche maniera va gestita e va arginata, ci siamo interrogati tante volte, si stanno interrogando tutti, e sicuramente un prezzo da pagare ci sarà. E prima comunque... poi il conto verrà presentato. Ma sì, poi anche in termini, comunque lo stiamo già vedendo, anche in termini proprio di crisi a questo punto, che dal settore finanziario si è trasferita all'ambito economico. Mi sembra abbastanza evidente. Il tema adesso è anche la durata di tutto questo. Tutti i grandi organismi di osservazione appunto economica e internazionali stanno continuando a gettare, come dire, benzina sul fuoco. Anche il Fondo Monetario Internazionale ieri ha detto la ripresa ci sarà, ma sarà molto lenta, sarà molto in là nel tempo. Lo ha detto anche la Banca Centrale Europea questa mattina. Però insomma, tanto prima o poi si ripartirà. Nicola, però partiamo dalla prima considerazione che ha fatto. Tutto questo rialzo delle ultime settimane subirà uno stop. Nicola Foscari. Sì, diciamo che è quello che pensiamo anche esatto, noi. Aveva anche un po' detto in prima. In realtà è quello che pensano gran parte degli operatori sul mercato, di vedere probabilmente un'altra, quella che si chiama una gamba al ribasso, quindi un'ulteriore correzione. Diciamo che però si possono fare dei commenti, perché veramente noi abbiamo visto un aumento del 30% delle quotazioni dal 9 marzo, però veramente se guardiamo un grafico di lungo periodo, ma lungo periodo intendo anche solo 2 anni, è stato fatto veramente poco, cioè veramente noi siamo ancora a livelli molto bassi di mercato, quindi è vero che sentiamo dei grandi numeri anche quando andiamo a vedere le singole società, però partono da veramente pochi dollari, sì, e pochi certo, euro, quotazioni, quindi livello, quotazioni sono veramente basse. Comunque quello che mi aspetto io in realtà è che fra qualche settimana potremmo avere qualche brutta notizia ancora dagli Stati Uniti, soprattutto in quella che si chiama Main Street, quindi l'economia reale, magari qualche società americana che si avvicina al fallimento o che comunque va in Chapter 11, quindi in una sorta di amministrazione controllata. Sì. Esatto, quindi quel tipo di notizie secondo me ancora devono arrivare sul mercato. È anche vero che qualche punto positivo lo possiamo trarre anche dalle società non strettamente legate al mondo finanziario, perché per esempio le poche società che sono uscite, e sono veramente poche, a livello di utili negli Stati Uniti, stanno dicendo che hanno ancora difficoltà nelle vendite, quindi quella che si chiama top line è ancora molto debole, però i margini sono molto buoni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molte società, e questo è molto facile negli Stati Uniti perché le società possono licenziare con enorme facilità, molte società stanno ristrutturando il proprio livello di costi e quindi riescono a affrontare in modo più flessibile questa contrazione del ciclo economico. Foscari, la fermo perché tra l'altro proprio a proposito degli altri settori in cui le trimestrali stanno uscendo, ancora pochi per la verità, proprio di questo Simone tu hai scritto questa mattina, sì. Nokia, Google negli Stati sì. Uniti, abbiamo avuto anche Intel la settimana scorsa, oggi dovrebbe arrivare anche Sony Ericsson, comunque abbiamo il settore tecnologico in movimento in questo momento, come sta andando? Beh, anche qui... probabilmente i più ottimisti possono intravedere dei segnali secondo cui, come dire, ci stiamo avvicinando al fondo e potremmo in qualche modo, stiamo toccando il bottom, come dicono i finanzieri, potremmo ripartire. Per altri, per i più cauti, ci sono, come dire, cioè nei bilanci si sta registrando i bilanci del primo trimestre 2009, che è stato poi il primo trimestre vero di recessione dell'economia reale, perché fino ad allora abbiamo avuto grossi problemi, ma solo sul lato puramente finanziario. Il primo trimestre 2009 è stato quello dell'impatto della recessione sui conti delle aziende. Nokia ha visto l'utile crollare del 90%, cioè sicuramente ha azzerato l'utile. Ora, il fatto che sia rimasta ancora profittevole può essere per alcuni un lato positivo, però di fatto i suoi utili si sono azzerati. Per il secondo trimestre ancora si aspetta un trimestre difficile, e Nokia è un settore altamente ciclico, perché ormai è vero che il telefonino non ha una utility, nel senso che tutti ormai ce l'hanno, però è anche vero che è un mercato di pura sostituzione, dove io sostanzialmente cambio il telefonino solo perché voglio. I prezzi sono crollati e continuano a scendere ancora. Sì. Però è un bene puramente voluttuario, nel senso che io cambio il nuovo, mi compro il nuovo modello di telefonino perché è bello, perché mi piace, perché ha nuove funzioni, fa la fotocamera o quello che è. Però sostanzialmente è un di più. Nel momento in cui l'economia si stringe, io ho un budget familiare che chiaramente viene a essere sotto pressione, è un tipo di consumo che io, è come quello della macchina, insomma, io ridimensiono, certo. Rinvio. Per cui Nokia vuol dire, è un'azienda che dà molto il polso della situazione. Diverso il caso di Google, che pur essendo una .com, quindi legato a questa economia virtuale, internet, tutti vedono un po' come una sorta di cosa un po' fumosa di cui non si capisce bene come funzioni. Però ormai il motore di ricerca per chi usa internet e negli uffici, ormai la stragrande maggioranza delle persone, è anche questo una commodity, e Google non guadagna tanto con le inserzioni pubblicitarie, i famosi banner, perché quello è un business che non si è arrivato di tizio, e tutto il mercato dell'advertising è in fortissima crisi. Pubblicità, quindi. Esatto, ma Google guadagna con le persone stesse che pagano come le pagine gialle per essere inserite nei loro motori di ricerca, e questo è un trend abbastanza anticiclico, perché non è che un'azienda smette di non essere o le persone non vanno più sul motore di ricerca, ci vanno comunque. Quindi, e infatti i dati hanno dimostrato che c'è comunque, per loro hanno registrato una crisi, quindi anche il settore high tech, dire, luce ed ombre. Poi concordo con i lettori, anche con i nostri analisti che state interpellando, che, come dire, ci sono ancora molte ombre. Vorrei ricordare che il Fondo Monetario Internazionale la settimana scorsa ha detto che ci sono ancora 4.000 miliardi di dollari di toxic assets, cioè di asset tossici, titoli liquidi nascosti nei portafogli di banche, istituzioni, fondi. Questi prima o poi, come dire, bisognerà farne pulizia di questi, che scongiurando magari anche l'ipotesi che questa cifra non possa essere rivista anche in termini peggiorativi, perché non abbiamo visto altro negli ultimi mesi, no? Che un riaggiornamento continuo delle stime in termini peggiorativi. E le agenzie di rating si aspettano un 15% di default per l'azienda. Questo significa che c'è un 15 aziende su 100 potranno andare in bancarotta, che è un tasso molto molto elevato. Appunto, come dicevano gli esperti di Credit Suisse, ancora noi questi default sul mercato non li abbiamo visti, però è probabile che arriveranno, quindi come dire, ancora bad news, insomma, dovranno sicuramente arrivare, confortate da alcuni spiragli, insomma, singoli che possono anche essere elementi di conforto, insomma. Elementi di conforto, però ecco, sempre piuttosto temporanei. Allora faccio fare la domanda a Gianni da Varese, che saluto, e poi gli rispondiamo dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Gianni? Buongiorno signorina e complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie per avermi chiamato. In parte avete già risposto alla mia domanda, perché io chiedevo se la situazione segnalava un'inversione di tendenza, cioè una ripresa. E poi volevo chiedere se sì, se era il caso di mediare ad esempio i titoli delle società ex municipalizzate, che sono ridotte proprio alla metà del prezzo d'acquisto, per poterle mediare, essendo un business sicuro. Però sembra che, cioè, voglio sapere l'opinione dei vostri esperti. E allora, amabilmente chiacchieravo con Simone Filippetti a microfoni spenti, ancora consideravamo il massiccio numero di telefonate che stanno arrivando, di molti ascoltatori che in realtà, anche se molto depressi dall'andamento economico e finanziario generale, in realtà guardano anche con grande attenzione a queste nuove tendenze e a tutta questa nuova situazione, appunto, che si è creata sui mercati, che porterà anche ad un approccio probabilmente radicalmente diverso rispetto al passato nel mondo dell'investimento. Detto questo, Gianmarco Bonacina, allora, il nostro ascoltatore si interrogava un po' sul futuro del settore delle utilities, no? Ovviamente a prescindere dal, forse Gianni, da quello che avevo capito anche dalle anticipazioni della domanda sul mio desk, era particolarmente interessato al mondo italiano, però mi chiedo, in senso generale, era pertinente l'osservazione che ha fatto l'ascoltatore? Un settore come questo è stato troppo penalizzato dalla crisi finanziaria in maniera anche ingiustificata? Dunque, per quanto riguarda il settore delle utility, diciamo che non è un settore diciamo privo di rischio, in quanto chiaramente il fatturato di queste aziende dipende non solo dai consumi elettrici delle famiglie, che sono comunque, diciamo, piuttosto stabili, ma anche dai consumi elettrici delle aziende. Quindi nel momento in cui le aziende chiudono le fabbriche e riducono la produzione, chiaramente il fatturato delle aziende che forniscono elettricità, fra cui anche le municipalizzate, scende, e anche in maniera sensibile. In alcuni paesi europei nel primo trimestre di quest'anno ci sono dei volumi per quanto riguarda appunto il consumo elettrico che sono in declino del 10% o anche di più. In secondo luogo ci sono i prezzi, quindi il fatturato è fatto da volumi e da prezzi. I prezzi dell'elettricità chiaramente sono legati a quelli che sono il prezzo del petrolio, del carbone, quindi diciamo del produttore che ha il costo marginale più alto. Chiaramente nel primo trimestre di quest'anno il prezzo del petrolio e il prezzo del carbone sono in forte calo rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Quindi in realtà i prezzi di queste aziende sono scesi, ma anche gli utili attesi per quest'anno sono scesi in maniera molto significativa, perché abbiamo volumi in contrazione e abbiamo anche prezzi in contrazione. Di conseguenza le quotazioni sul mercato hanno rispecchiato questa situazione? Certo, perché comunque queste aziende hanno anche una buona parte di costi fissi, quindi la discesa degli utili è veramente molto, molto marcata. Se decidere, se investire ancora in questo settore, chiaramente una variabile molto importante è legata alla ripresa del ciclo economico per quello che riguarda i volumi, e dall'altro lato alla ripresa delle quotazioni, del greggio, che chiaramente aiuta appunto la crescita del fatturato degli utili. Diciamo che in ottica più difensiva forse vale la pena di monitorare quelle che sono invece le utility regolamentate, i cui utili sono meno sensibili all'andamento del ciclo economico, in quanto hanno una remunerazione che è basata sulla cosiddetta RAB, cioè sostanzialmente sugli investimenti che vengono fatti, e che non è appunto funzioni di variabili esogene come può essere l'andamento della domanda o quello dei prezzi. Ecco, quindi insomma, se si dovesse proprio scegliere, almeno secondo le considerazioni di Equitasim, meglio l'ambito regolamentato. Allora la interrompo, Bonacina, perché abbiamo la trimestrale di Citigroup. Simone, te la leggo in diretta, sei emozionato? Sì, grazie. Okay. Un po'. Gruppo torna all'attivo di bilancio, il gruppo bancario newyorkese ha riportato profitti per 1.590 milioni di dollari nel primo trimestre, su ricavi per 24,79 miliardi, secondo il CEO Vikram Pandit, si è trattato del miglior risultato in termini di performance dal secondo trimestre del 2007. Citigroup ha anche comunicato di aver ridotto nel corso del trimestre la sua forza lavoro di 13.000 unità a quota 309.000. Adesso io non so se il mercato ha migliorato le sue prestazioni in Europa grazie ai dati di Citigroup, di fatto c'è, cioè, rispetto ad un'oretta fa, ancora un miglioramento: Parigi più 1,33%, okay. Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,8%, Milano sta guadagnando quasi 2 punti. Beh, è un dato assolutamente, come dire, visto così, poi andranno visti, come dire, come i numeri vengono spiegati, però insomma il fatto che sia trovato inutile di 1,5 miliardi è assolutamente un dato, credo che pochi, forse nessuno si attendeva, quindi mi aspetto che il mercato reagirà in maniera molto positiva. Quindi vedremo oggi anche Wall Street. Poi non toglie che tutti i dubbi e le perplessità che avevamo, come dire, rimangono ancora tutti sul tappeto, però sicuramente questo potrà regalare un buon venerdì 17 alle borse, probabilmente. infatti, torniamo appunto all'aspetto scaramantico che abbiamo sottolineato in apertura di trasmissione. Allora sentiamo Ivo da Treviso, che aspetta da un po'. Ivo, rapidissimo, sì. Se poi la ringrazio, perché abbiamo anche altri ascoltatori e il tempo qua ci sta scivolando via. Ah, buongiorno, sono Ivo di Conegliano. Volevo chiedere un'informazione. Siccome ho degli investimenti su titoli azionari, monetario, dei fondi azionari, monetario e bilanciati, volevo chiedere, in un futuro, siccome di 100 ho il 20% in azionario, sì, in questo momento conviene cedere la quota azionaria e trasferire il monetario dal loro punto di vista, oppure investire ogni mese qualcosa nell'azionario con la probabilità che dopo un anno ci sia una crescita? Siccome in questo momento ho avuto una performance di un 15%, volevo capire dalle loro analisi se vale la pena tenere lì oppure spostarlo. Beh, certo, Ivo, tanto bisognerebbe avere, come dire, la possibilità di fare un check-up un po' più attento sia dei prodotti che lei ha in portafogli in questo momento, soprattutto delle sue esigenze di investimento e di risparmio. Detto questo, soffermiamoci magari meramente sulla percentuale indicativa che ci ha dato di composizione del 20% nel settore azionario del suo portafoglio. Nicolò Foscari, lei che cosa farebbe in questo momento? Ovviamente, ribadisco, sempre tenendo presente quelle che sono le esigenze della persona che ci ha telefonato, e soprattutto la trimestrale di Citigroup, le piace? Allora, sulla trimestrale di Citigroup è veramente difficile poter dire qualcosa, perché questo 1.5 billion vorrei capire da dove l'ha tirato. La famosa qualità, perché è tutto, perché poi il mercato si deve muovere non tanto sui numeri, ma sul messaggio che poi dà, perché il mercato è tutto aspettativa, quindi dipende molto anche dal messaggio che il management dà sul futuro. Quindi non è tanto importante quello che è successo negli ultimi 3 mesi, ma è il messaggio che il management... Un po' come si faceva con Greenspan in passato, di cui molti osservatori si spendevano un sacco di tempo a guardare anche tutte le singole pieghe della faccia quando faceva i suoi comunicati, appunto, relativamente ai tassi di interesse. Ma questa, insomma, è una cosa del passato, e Greenspan forse anche qualche danno l'ha provocato. Detto questo, Citigroup, Simone, spegni il telefono, per carità. Sì, guardi, sì. Per quanto riguarda l'ascoltatore, le posso dire, appunto, come lei ha confermato, bisogna assolutamente vedere come è investita la componente equity, in che valuta, e in realtà anche tutto il restante in che cosa è investito, perché monetario, obbligazionario, con che duration, quindi bisognerebbe, però le posso dire che proprio detto in modo poco rigoroso, quello che in un'ottica massimamente prudenziale, ma ammettiamo di così dare un'interpretazione delle esigenze di... non andrei a toccare questa percentuale di esposizione azionaria. Quello che farei è aumenterei nel caso di un ulteriore gamba che basso. Addirittura, quindi sì, insomma, sì. Se dovesse arrivare, se il mercato dovesse avvicinarsi ai minimi che abbiamo già toccato a inizio marzo, io andrei a incrementare la posizione. E poi, Ivo, dipende anche da che necessità ha lei rispetto a questo denaro. Magari lo deve utilizzare fra 2 anni per comprare una casa nuova, allora è chiaro che lo deve proteggere. Se l'ottica invece di investimento è di periodo un po' più lungo, magari il rischio può essere di conseguenza un po' più lungo. Detto questo, sentiamo, forse ce la facciamo anche Roberto da Perugia, che pur aspettava da un po', non so se riesco a sentire Vincenzo, magari poi do una lettura rapida io della sua domanda. Roberto? Buongiorno, senta, io sono un medio investitore, mi definirei così, e c'ho un'attitudine contrarian, nel senso che nel periodo in cui c'erano tutti i consulenti, tutte le persone che venivano anche da lei a parlare, dicevano flight to quality, io ho comprato azioni e praticamente sono arrivato ad un asset allocation del 100%. E cioè, chiaramente asset allocation con... del 100% in che settore? Nell'azionario, quindi capisco, no, se ha fatto il contrario. Un asset allocation adesso, anche perché vendendo delle obbligazioni che erano notevolmente sopra la parità, si guadagnava sulla cosa. Io devo dirle questo, io penso che l'unico modo, in un certo modo, per anche per guadagnare non è tanto stare a sentire tutti i discorsi sulla qualità dei bilanci. In fondo il mercato, se sale sale, se scende scende, tutto il resto sono flatus vocis, niente di più. No, però lei una cosa, quello che volevo sapere, una cosa, io no, ciò, non mi creda, non è che io sia uno sprovveduto, sono circa 20 anni che ma mi ci mancherebbe altro di questa cosa qua. Mi sembra molto pare, consapevole di quello che fa. Mi pare, adesso sto rientrando lievemente sull'obbligazionario, anche perché, mi creda, il mondo non finisce e ogni volta, a partire dalla crisi dei bulbi del 1400, che il mondo finiva. Il 1600, mi ricordo. Per sì. Cui io penso che, certo, uno non deve dover comprare qualcosa adesso, deve avere, diciamo, le spalle coperte, ma secondo me l'unico modo è, come diceva il vecchio Kennedy, comprare quando scende e vendere quando sale. Ma sa, Roberto, questa è la filosofia che sposano tutti i grandi investitori e che tutti suggeriscono. Il tema è, in questo momento, data una crisi che ha una portata inedita, è quando siamo arrivati ai minimi e quando abbiamo anche il coraggio di ripartire. Detto questo, lei ha fatto, mi sembra, delle scelte del tutto consapevoli, del tutto legittime, che sono assolutamente coerenti con il suo profilo di investimento, pertanto va bene. Ci rimane 40 secondi di tempo, allora concludo magari con Gianmarco Bonacina, che non ho sentito da un po'. Vuole commentare questo ultimo caso che abbiamo sentito, Bonacina, Equitasim? Sì, assolutamente, non ho capito qual è la domanda in realtà. Non ce n'era una, no, in realtà lui dice, insomma, io faccio il contrario di quello che vedo. Nel momento in cui tutti si spaventano, io in realtà ho abbondantemente incrementato le mie posizioni nel settore azionario, quando tutti consigliavano invece il fly to quality, di andare verso la qualità e proteggersi con il comparto obbligazionario. Quindi banalmente è sostanzialmente una scelta che lui ci ha raccontato. Certo, no, sicuramente 10 secondi, sì. Cioè, voglio dire, il modo di operare è corretto, il problema è che molto spesso quando i mercati scendono, gli investitori istituzionali hanno poi degli outflow da parte degli investitori retail e quindi sono molto spesso costretti a vendere, a uscire, quindi, e quindi, come dire, amplificano poi anche le tendenze che vediamo. Quindi, diciamo, se un investitore retail ha appunto la possibilità e il coraggio di comprare quando i mercati scendono, sicuramente la probabilità di guadagno è chiaramente più alta. Più alta. Grazie a Gianmarco Bonacina di Equitasim, Nicolo Foscari di Credit Suisse Asset Management, Simone Filippetti del Sole 24 Ore. Simone, ciao. La trimestrale di Citigroup ci sembra buona, ma adesso, insomma, la andiamo ad analizzare piega per piega nel suo bilancio. Grazie a tutti, a lunedì.